E non ha tanto senso se mi devo spiegare come, in che senso, il senso dei sensi. E ti ho mandato segnali, neanche fossi una nave, ma perché hai l'ossessione di fare lo spirituale? Tu in perenne moviola, io vivo da cannoniera, ci spero ancora nella zona cesarina. Non sono tipa da giochi di prestigio con le carte, sono tipa che vuole vedere presto la merce. Già non mi piace mai nessuno, una volta che c'è uno assolutamente buono, mi lascia pure casta, tiene per se la palla, sei l'uomo tiki taka che mi invita e non mi caca. Se la vita è breve, nel dubbio facciamo l'amore, l'amore. Il tempo è un mozzico, dopo il pane ci vuole il salame, salame. Oh, quanto ti voglio, quanto ti voglio. Basta un grissino per aprire un tonno. Quanto ti voglio, quanto ti voglio, ti spoglio, ti invoglio, ti sfondo. Non è più una questione di chi fa il primo passo. Tu miri in alto, io punto un po' più in basso. Mentre parli ti fisso come fanno i pitoni. Freddy Krueger che incontra uno che ama i grattini. Certe persone ti fanno sentire assatanata, come frustrante. Mi baci ma poi niente, Già non mi piace mai nessuno, una volta che c'è uno assolutamente buono, mi manda fuori gioco, io brucio poco a poco. Per questo fallo io speravo di morire dopo. Se la vita è breve, nel dubbio facciamo l'amore, l'amore. Il tempo è un mozzico, dopo il pane ci vuole il salame, salame. Quanto ti voglio, quanto ti voglio. Prestami il tuo dito che col mio mi annoio. Quanto ti voglio, quanto ti voglio. Ti spoglio, ti sfondo. La partita è finita, son così amareggiata. Senza neanche un gol, neanche uno, oh. Piango nel tuo ascensore mentre un dubbio mi assale. Il primo passo Dio lo potevo fare pure io. Quanto ti voglio, quanto ti voglio. Prestami il tuo dito che col mio mi annoio. Quanto ti voglio, quanto ti voglio. Ti spaglio, ti sfondo. E siamo ai supplementari e allora tira sta palla. Ai, ma no, non spingere.